in primo piano. Oggi i giornali regalano aperture diverse, prime pagine con temi e scelte diverse per l'appunto. Si può iniziare da Garlasco, smontate le accuse. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, quindi la vicenda che vede coinvolto Alberto Stasi. Oppure, più prettamente politiche, l'intervento di Napolitano dopo le frasi di Berlusconi sull'Afghanistan e l'opposizione e la scelta di Repubblica. Napolitano corregge Berlusconi, su Kabul opposizione responsabile. E così anche La Stampa, l'impegno in Afghanistan condiviso dall'opposizione. Apertura economica invece per Il Sole 24 Ore sul cosiddetto piano meridione del ministro all'economia Tremonti. Al sud zone a burocrazia zero, questo è il titolo di apertura. E poi l'appello lanciato ieri dalla presidente di Confindustria Emma Marcegaglia insieme al presidente della Camera Gianfranco Fini, un patto contro la mafia. E Fini che dice la politica dia l'esempio. C'è poi ovviamente tanto canone Rai, come detto, soprattutto sul giornale Libero, ma poi li vedremo e vedremo le altre aperture. Cominciando la lettura dei giornali, dicevamo della questione politica con cui aprono Repubblica e La Stampa, vale a dire le frasi di Berlusconi sull'opposizione e ieri l'intervento del presidente della Repubblica Napolitano, che sostanzialmente ha detto su Kabul l'opposizione è responsabile. La Repubblica intervista anche a pagina 2 il ministro alla difesa Ignazio La Russa, l'intervista di Gianluca Luzzi, e dice La Russa: quando ho sentito quella frase di Berlusconi ho detto mamma mia, ci saranno polemiche perché non sta precisando. E poi dice La Russa: ho parlato con Berlusconi questa mattina, cioè ieri, e ho trovato il presidente assolutamente dispiaciuto di quello che ha definito un fraintendimento. Ha detto: nella foga probabilmente ho contribuito al fraintendimento non precisando meglio i termini. Mi ha detto letteralmente: nella mia testa, nella mia intenzione, l'invettiva era rivolta a qualche frangia di estrema sinistra. Berlusconi, dice La Russa, è assolutamente consapevole che su questo aspetto non c'è nulla da rimproverare alla sinistra parlamentare. Dunque La Russa che dice Silvio è dispiaciuto, ce l'aveva con gli estremisti quando ha detto l'opposizione sostanzialmente brucia le bandiere americane, quella di Israele, o esulta per i nostri militari morti. Tra l'altro c'è da dire che su Repubblica a pagina 3 c'è anche un retroscena, un cavaliere che avrebbe detto ho esagerato ma era un comizio con Berlusconi, che secondo questo retroscena di Carmelo Lo Papa sarebbe irritato dal Quirinale, ma si sa, i retroscena sono un po' così. Interessante invece quello che propone in prima pagina del Corriere della Sera sul fronte politico, economico, Massimo Franco. Napolitano ha dei dubbi ma firmerà lo scudo. Si parla dello scudo fiscale, sapete che ci sono state degli emendamenti, c'è stato un emendamento e dunque delle modifiche. Però secondo il Corriere della Sera e secondo Massimo Franco, Napolitano firmerà alla fine il provvedimento dello scudo fiscale. La pressione del centro-sinistra, scrive Franco, contro lo scudo fiscale sta aumentando in modo vistoso ed è possibile che alla fine il Quirinale chieda al governo qualche chiarimento, puntualizzi alcuni aspetti del decreto, magari affidandosi a una nota, ma l'impressione è che Giorgio Napolitano si prepari a prendere atto del provvedimento e a firmarlo, non a respingerlo. L'esigenza infatti sarebbe di non creare confusione e tensioni, bloccando gli effetti che il decreto sta già producendo dopo l'approvazione, e di permettere al governo un margine di manovra finanziaria altrimenti azzerato dalle dimensioni della crisi. Dunque, secondo Massimo Franco, secondo questo dietro le quinte, Napolitano firmerà, gli uffici del Quirinale stanno esaminando ogni riga delle modifiche, ma il sì viene dato per scontato. Una decisione, scrive Franco, destinata a scontentare il centro-sinistra e incrinare ulteriormente i rapporti tra Napolitano e quel frammento corposo di opposizione riunito attorno ad Antonio Di Pietro. Se volete continuare con il retroscena, sentite un po' qui. Questa è l'apertura del Riformista. Voglia di rimpasto. Ecco la strategia antipoteri forti del Premier. Un Premier che nell'articolo di Alessandro De Angelis è definito infuriato, non solo per la RAI, ma dice gli attacchi non finiranno, TV, giornali, sinistra. E poi c'è una manovra in atto, quella di farmi cadere. E allora che cosa sarebbe la voglia di rimpasto? Scrive Alessandro De Angelis: ecco perché il Cavaliere pensa a una mossa sorpresa. offrirà un ministero a Montezemolo. Il premier è convinto che la partita finale, scrive De Angelis, si gioca soprattutto nei salotti buoni, per questo vuole Montezemolo, per questo vuole consolidare l'alleanza con Geronzi. Chi è, secondo De Angelis, il primo imputato di questi possibili complotti? Tremonti. Tremonti gioca solo per sé, ha detto ai suoi Berlusconi, che si è lamentato dei silenzi di Giulio sugli scandali che lo hanno coinvolto, ma anche sulla RAI. Il tesoro è azionista di maggioranza, ma il ministro non ha detto una parola. E dunque ecco il segnale, secondo il riformista, la possibilità di offrire a Montezemolo una poltrona nel governo, in particolare quella dello sviluppo economico, oppure un dicastero al commercio con l'estero. Lasciamo in retroscena, veniamo invece alle cose concrete che trovate sui giornali. Vale a dire, la campagna, l'abbiamo detto, la campagna contro il canone Rai e l'apertura anche oggi per il giornale e Libero, che hanno lanciato questa campagna. Tra l'altro è il termine del nostro sondaggio, vi vogliamo chiedere se questa campagna lanciata dal giornale Libero, cioè non paghiamo il canone della Rai contro certa TV, vi vede d'accordo oppure no. Potete già votare sul sito radio24.it o ilsole24ore.com. Il giornale apre così: il giornale terrorizza la Rai. E invece Libero, ecco i martiri a spese nostre. I martiri a spese nostre sono, insomma, tutti i vari conduttori più famosi della RAI, con tutti i contratti, con tutte le cifre che trovate, paginate e paginate all'interno. Il giornale raccoglie anche quelle che sono le adesioni da parte di persone comuni che hanno mandato mail per dire la battaglia è giusta. C'è anche un commento di Carlo Rottieri, il professor Carlo Rottieri, che dice: la battaglia contro il canone Rai lanciata dal giornale è più che giusta, è sacrosanta. Questo è un commento che trovate a pagina 3 del giornale. Per questa ragione la battaglia deve anche diventare una battaglia contro la Rai, contro il permanere di un'azienda di Stato che in quanto tale ha sempre la possibilità di accedere a sussidi pubblici. Qui non si tratta affatto di togliere a Travaglio o Santoro la possibilità di accedere agli schermi televisivi. Al contrario, si tratta di avere un sistema televisivo più pluralista, proprio perché è interamente privatizzato e quindi sottratto a ogni interferenza politica. E dunque il titolo emblematico del commento di Carlo Lottieri è: la soluzione ideale è privatizzare la televisione di Stato. Tra l'altro su Libero c'è, a pagina 3, ci sono già dei conti. 1 milione di italiani non paga il canone Rai. Gli italiani sono stufi, e non perché si lasciano convincere da una campagna di stampa o perché hanno semplicemente deciso di trascorrere il loro tempo libero leggendo un bel libro o andando a fare shopping. Gli italiani sono stufi di pagare una tassa per la TV di Stato. Non si tratta di proclami o di inviti alla disobbedienza civile, ma di numeri messi nero su bianco nei bilanci della RAI. Dunque 1 milione di italiani non paga il canone, ci sono 300.000 persone all'anno che lo disdicono, a questi vanno sommati i 700.000 cittadini che non hanno mai versato nulla. Tra l'altro c'è un'intervista sempre su Libero di Storace, il leader della destra, che insieme a Daniela Santanchè è la più agguerrita a portare avanti, da oggi pare ci siano anche i gazebo un po' in tutta Italia per firmare questa proposta. Storace dice: possono chiamare come vogliono questo, un abbonamento. Peccato che si tratti di una tassa bella e buona, legata al possesso dell'apparecchio. Allora ecco che Storace ha annunciato azioni popolari di disobbedienza civile. Che cosa ha in mente? Gli chiede Tommaso Montesano. Ci sto ragionando con i miei esperti giuridici. Domani ci riuniremo, la fantasia è fervida e non ci manca. Metteremo in piazza una vera e propria guerriglia mediatica contro la RAI. La disdetta dal canone è solo il primo passo. Il ventaglio di ipotesi su cui stiamo lavorando, visto che per pagare il canone basta il possesso degli apparecchi, li rottameremo sul cavallo di Viale Mazzini. Tra l'altro sulla questione RAI c'è anche un commento di Umberto Folena in seconda pagina di Avvenire, quella appunto dedicata ai vari commenti. Avvenire giudica sbagliata in tutta la premessa, vi riassumo, insomma, dell'editoriale, la battaglia di Libero e il giornale. Però conclude così Umberto Folena, c'è nel titolo, nel fondo, che è titolato: c'è una RAI da pagare volentieri, ridatecela prima che sia tardi. è su questo fronte, dice, il servizio pubblico televisivo dovrebbe dimostrare un guizzo di orgoglio, dovrebbe rinunciare a quella che da anni denunciamo come la pornografia dei sentimenti di troppi programmi spazzatura, all'illogica dittatura dell'Auditel, usato non come strumento a servizio del mercato pubblicitario, ma per determinare la sorte dei programmi, secondo l'assurda equivalenza quantità uguale qualità, ai compensi milionari di star di dubbio talento, a fronte dell'incapacità di reperire fondi per una vera TV dei ragazzi e per i ragazzi, a partire dal loro diritto a un'informazione calibrata e a misura, per non parlare delle continue violazioni del codice di autodisciplina, della pubblicità strillata a volume doppio. Questa sarebbe la RAI per la quale pagare volentieri una tassa. E questo sarebbe il servizio pubblico degno di una nazione civile. Così conclude Umberto Folena. Le vicende della TV, ma non solo, è l'apertura anche del Fatto Quotidiano, il quotidiano che ha una settimana di vita di Padellaro e Travaglio. È regime, ma il PD dov'è? Questo è il titolo d'apertura. Berlusconi assalta la RAI, il governo premia gli evasori, i democratici pensano alle baruffe congressuali. Sulla vicenda della TV c'è anche un nuovo fronte, quello di Serena Dandini. Perché? Perché stasera apre il programma, ritorna al programma Parla con me di Serena Dandini, e come riapre con una nuova, una sorta di fiction intitolata Lost in VC, dove VC dovete leggerlo per il cesso, praticamente il bagno. E Lost in VC è ambientata dove? Nel bagno di Palazzo Grazioli, la residenza di Berlusconi. Una fiction da stasera, dice la Dandini, nessuno la voleva mandare in onda, ma noi ci cimentiamo in un'impresa eccezionale, aiutare il TG1 a dare tutte le notizie. La fiction prevede la presenza di due ragazze che si preparano per andare a una festa e si fotografano a vicenda col cellulare. E beh, io temo che già da stasera ci saranno polemiche su questa nuova fiction all'interno del programma Parla con me. Parleremo di altro subito dopo il traffico, le altre notizie sui giornali in prime pagine di oggi. In primo piano. L'innocente massacrato. Questo è il titolo di Libero, due pagine interne, la foto sulla quale c'è questo titolo è quella di Alberto Stasi. Alberto Stasi oggi lo troverete su tutti i giornali, avete sentito anche in GR24 e addirittura l'apertura del Corriere della Sera. Smontate le accuse, scrive a 9 colonne il Corriere della Sera. L'innocente massacrato perché? Perché c'è una super perizia che, ora bisogna sempre usare il condizionale in questi casi, assolverebbe o comunque farebbe registrare un punto a favore di Alberto Stasi. Due anni di indagini a vuoto, scrive Libero, ma un po' ovunque. Crollano gli indizi su Stasi, la super perizia sconfessa l'accusa. Questa è due pagine interne anche su Repubblica. Così come Giallo Infinito, il quotidiano nazionale, tra l'altro riporta anche alcune frasi della mamma di Chiara Poggi, vale a dire la vittima. Non accuso nessuno, non l'ho mai fatto, ma non voglio che l'assassinio di mia figlia, chiunque sia, rimanga impunito, dice appunto la madre di Chiara. E il padre invece dice: dico quello che ho sempre detto, vedremo, aspettiamo, non dico neanche di essere amareggiato, sarà quello che sarà. Ovviamente sotto accusa anche un po' tutte le indagini, il modo in cui sono state gestite le indagini in questo momento in cui davvero sembra che l'accusa nei confronti di Alberto Stasi, non dico che sia crollata, ma sia incrinata. Scrive per esempio Piero Colaprico in un commento che parte dalla prima pagina di Repubblica, dal titolo Garlasco si riapre il giallo, l'ultima perizia assolve Stasi. E allora chi ha ucciso Chiara Poggi? Chiara ci sorride ancora dalle pagine dei giornali, come se andasse incontro alla vita e al lavoro, ma il 13 agosto di 2 anni fa è stata trovata morta, sommersa dal suo stesso sangue, sulle scale della cantina. E questa preghiera, diteci chi l'ha uccisa, tornerà a risuonare a breve nelle aule del processo. Che cosa scrive sostanzialmente Colaprico? Che le macchie sulla bici, le impronte in bagno, tutte le prove fragili di un'inchiesta infinita. Va detto che chi ha ucciso Chiara, nemmeno il nuovo perito, con la perizia appunto fatta, sa suggerirlo. Davvero un mistero. Sulla Stampa è titolato l'Harry Potter col physique du rôle del colpevole, incastrato da indizi e indagini frettolose, la sua prima reazione ora è: sono abbastanza contento. Lasciamo la cronaca, dicevamo che per quel che riguarda l'economia, l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata al cosiddetto piano per il rilancio del Sud da parte del ministro dell'economia Tremonti, risparmio detassato per il Sud, questo è il titolo che trovate all'interno a pagina 7 con tutte le proposte che sono state fatte da Tremonti, le quattro proposte, fondi europei al CNR e poi al territorio. La Banca del Sud, che è uno dei cavalli di battaglia di Tremonti per far decollare il Mezzogiorno, deve lavorare nel Sud e per il Sud, dunque usare la rete delle banche di credito cooperativo. Poi le risorse, come terzo punto, le risorse dello Stato solo alle grandi opere. E poi quella che è l'apertura anche in prima pagina del Sole 24 Ore, zone a burocrazia zero anziché zone franche al Sud, e infatti il Sole apre così: al Sud zone a burocrazia zero. Va da registrare, è da registrare anche un altro attacco, peraltro non è la prima volta, del ministro Brunetta ai giudici. Ieri era la presentazione di un libro e ha detto: l'ANM è un mostro, l'ANM è il sindacato delle toghe. Ha rilanciato la proposta del badge per le toghe, quando si va nei tribunali alle 2 non si trova nessuno. La replica molto dura da parte dell'ANM. Così Brunetta nasconde le sue inadempienze. C'è poi la vicenda che ancora campeggia su tutti i giornali di Roman Polanski, il regista francese, polacco di origine ma ora francese, che deve scontare, o meglio, su di lui c'è un mandato d'arresto per uno stupro di una tredicenne avvenuto a Los Angeles nel 1977. La stampa si chiede: difendere Polanski? E ci sono varie posizioni, quella di Lidia Ravera, femminista storica, scrittrice, che dice: poiché sono passati più di 30 anni si potrebbe valutare se sia stato un raptus o invece un'abitudine. Senza appello invece Daniela Santanchè, l'arresto è una cosa giusta, non capisco perché dovrebbe avere lo status di immunità. Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro: in termini di principio è necessario mantenere la certezza della pena. Certo, in questo caso si pone il problema: ma ha ancora senso quella pena 30 e più anni dopo? Insomma, ci si chiede se Polanski debba essere difeso oppure no. Lui sicuramente dice: mi difenderò fino alla fine contro l'estradizione. Voglio chiudere con una segnalazione di una pagina che trovate sul Corriere della Sera: quei bambini di 6 anni ancora nel passeggino. Una cosa che interesserà molti genitori. Che succede? Che sempre più, per colpa della fretta, per il fatto che si viaggia veloce, si va in giro, non c'è tempo per far camminare i bambini, a volte si ha anche paura di tenerli per mano perché nel traffico ci sono le macchine, sempre più mamme usano fino a tardi il passeggino, addirittura fino a bambini di 5 e 6 anni. Il commento di Fulvio Scaparro è: niente ricatti, meglio correre. I pediatri dicono: è un errore usare i passeggini fino a questa età così tarda. Bisognerebbe tenerli nel marsupio fino a un anno, da 1 a 3 anni va bene il passeggino, oltre i 4 anni il passeggino sarebbe assolutamente da evitare, i bambini devono camminare da soli. Infatti, scrive Scaparro, noto da tempo il crescente uso del passeggino per portare a spasso bambine e bambini ormai grandicelli, perfettamente in grado di camminare sui marciapiedi cittadini, sia pure tenuti per mano. Non ne faccio un dramma, ma lo considero un segnale negativo se è vero che i bambini fin dalla nascita dimostrano una prorompente vitalità e il loro corpo ha voglia di funzionare e di muoversi. Dunque, cari genitori, prendete appunti e ci fermiamo qui con questa segnalazione. Ricordo il sondaggio, che è già online su radio24.it o ilsole24ore.com. parliamo di canone Rai, la campagna lanciata dai quotidiani Libero e Il Giornale, che hanno detto: non vogliamo più pagare il canone Rai contro certa TV, che loro hanno ribattezzato la tassa Santoro. Siete d'accordo oppure no? Vi chiediamo questo. Sul sito potete votare, dovete votare, mentre ne parleremo più approfonditamente alle 8.30, e potete già anche chiamare per prenotare il vostro intervento. 800 24 0024, tra poco.